Calma. Calma. Hey. Hey. In questa bella città tutti credono che c'è solo felicità, ma io ti dico già che era così qualche tempo fa. Ora c'è solo stress e velocità, darti una frenata, ma calma. Sempre traffico, troppe auto, dove vanno? Credo che non lo sanno, però noi lo sappiamo. Ecco, la strada è bloccata, adesso che facciamo? Ma calma. Calma ragazzi, calmatevi tutti, ripetiamo un po', ma roba da pazzi, ora che farò? Calma ragazzi, calmatevi tutti, ripetiamo un po', ma roba da pazzi, ora che farò? Sì, ora che farò? Calmatevi tutti. Guarda quel matto, quel ragazzo che corre senza fiato, sarà in ritardo ad un appuntamento. Ma calma. Arrivato sul posto, hey, non c'era nessuno, hey. Guarda l'orologio, rifletta un po', ci ripensa e dice no. Mi sono sbagliato di giorno, ma calma. Hey. Ma calma, hey. Calma, hey. Calma ragazzi, calmatevi tutti, riflettiamo un po', ma roba da pazzi, ora che farò? Calma ragazzi, calmatevi tutti. Non bisogna sempre fare come dicono, segui tu istinto, non dare mai retta a nessuno. Calmatevi tutti. Andiamo questa sera in discoteca, che domani non si lavora. Riposo meritato dopo una settimana, no, che sfiga, non posso entrare, mi manca un becca. Ma calma. In questa bella città tutto va in velocità, troppo stress di qua di là. Ma come si fa? Calma ragazzi, calmatevi tutti, riflettiamo un po', ma roba da pazzi, ora che farò? Calma ragazzi, calmatevi tutti. Non bisogna sempre fare come dicono, segui tu istinto, non dare mai retta a nessuno. Calmatevi tutti.